Cessa, che l'insolente arbitro della sorte non serva d'orità sulle grand'alme, e che un'alta virtude, benché dalla cinvolta, va col libero piede.